Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e sei minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e allora siamo tutti qui riuniti per raccontare anche oggi la cronaca della giornata economico-finanziaria per chi sta lavorando, purtroppo per lui, per chi è in vacanza, bene, e per fortuna per lui anche per chi è in viaggio. Cronaca che, come avete sentito già dai nostri GR, oggi si compone soprattutto di un rapporto della Confcommercio, quindi l'unione più importante dei commercianti italiani. È un rapporto che ha due facce: la prima guarda al 2008-2009 e dice in sostanza quanto ormai sentiamo ripetere da mesi: sarà un calo del PIL e dell'economia italiana pesantissimo quest'anno, i consumi sono in contrazione, qualche segnale nel 2009. Poi però c'è una parte, a mio avviso, un po' più interessante, nel senso che è meno legata alla congiuntura e più invece alla tendenza, e quindi ogni tanto evitiamo anche di parlare solo della cronaca di questa crisi, e riguarda come si sono mossi i consumi negli ultimi 7 anni. E lì, accanto a tutte le critiche che abbiamo mosso, anche come alcuni esercizi commerciali hanno cambiato i rapporti di prezzo da lira a euro facendo un rapporto 1-1, però è anche vero quello che altri facevano notare: i prezzi sono aumentati per alcuni generi, si consuma meno di alcuni generi perché si spende più di altri. Il caso dei telefonini è quello più emblematico, più 189% dal 2002 al 2008, e la spesa per l'acquisto dei telefonini è aumentata del 15% solo l'anno scorso. Quindi c'è probabilmente in molte fasce sociali una contrazione del potere d'acquisto, ma c'è anche una ridistribuzione di questo potere d'acquisto, quindi del paniere, come lo chiamano quelli che hanno studiato. Parleremo poi degli Stati Uniti, perché anche lì c'è un problema di consumi, ma anche di tenuta degli enti locali. Avete sentito del comune di Chicago, non è l'unico, si parla sempre del deficit americano, ma dimenticandosi che quello è il deficit federale, quello complessivo. Poi ci sono dei deficit astronomici in alcuni casi che hanno colpito grandi amministrazioni comunali, penso a Los Angeles e adesso Chicago, e anche molte amministrazioni di media dimensione. Infine chiuderemo con i mercati, li teniamo per ultimi oggi perché la giornata è stata di quelle abbastanza intense. Ci ha pensato questa mattina l'Asia a dare una ghiacciata a tutte le borse, prima asiatiche e poi anche europee. Un PIL, una crescita del PIL giapponese che a noi sembrava anche buona, ha deluso molti investitori. Dico sembrava perché va a livello tendenziale in crescita del 3%, eppure ha deluso molti investitori. In contemporanea ci sono timori che questi segnali di ripresa non bastino a sostenere una ripresa vera e propria nel 2010, e le borse appunto reagiscono molto molto male. Partiremo proprio con notizie in breve dai mercati finanziari. Il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Male male, e male anche Wall Street, che perde il 2,1%, Parigi meno 2,3%, Francoforte meno 2%, Londra meno 1,7%, Milano purtroppo oggi è la peggiore, meno 2,70% FTSE MIB, meno 2,60% FTSE All. Che cosa cede più di altri settori? Beh, Autogrill perde il 4,20%, Geox il 4%, Bulgari pure, e anche Intesa San Paolo perde il 4%, le Ciri il 3,80%, Tenaris perde il 3,7%, come Unicredito 3,5 punti percentuali, li perdono Generali, il Banco Popolare e Pirelli il 3,3%, e il calo di Alleanza, Prismian, Mediobanca, Mediolanum e Atlantia. Come sentite, non ci sono dei cali enormi, ma ci sono tanti cali consistenti, ma non cali diciamo superiori al 4%. Unico titolo positivo all'automatica, più 0,1, tra i migliori e peggiori, così vediamo subito, poca cosa. La Doria guadagna il 18,7%, Filatura di Pollone guadagna il 17%, CHL il 2,6%, chi perde di più? Danieli, meno 6,4%, Fortis meno 5,4%, Tiscali perde il 5,30% oggi. Al di là dei consumi americani e dei consumi italiani, oggi vi facciamo già riferimento, il Giappone ha diffuso il dato sulla sua crescita economica. Allora, per la prima volta in 5 trimestri c'è il segno più 0,9% rispetto al trimestre precedente, e al ritmo annualizzato vorrebbe dire una crescita del 3,7%. Quindi, dopo la Germania, la Francia, il Giappone, quindi stiamo parlando delle principali economie del pianeta, seconda, terza e quarta, se non vado errato con la memoria, lasciando stare la Cina in questo momento, hanno dato segnali di ripresa. Statistica però leggermente sotto e inferiore quindi alle stime degli analisti, nonostante fosse da 12 mesi che il Giappone viaggiava con il segno meno nel suo PIL. La cosa che ha deluso molto gli investitori però è anche un dato che arriva sempre dall'Asia, è un dato cinese: investimenti esteri in picchiata in Cina, cioè gli investimenti che arrivano da fuori in dollari, in euro, meno 35,7% nel mese di luglio rispetto a un anno prima, mentre a giugno c'era stato un calo ma molto più contenuto, del 6,7%. Sempre in Cina, ma questa volta parliamo di Fiat, che ha siglato un'intesa da 400 milioni di euro con la cinese Guangzhou Automobile Group, secondo quanto riferisce oggi il Wall Street Journal, spiegando che l'operazione si inserisce nel tentativo di penetrare da parte del Lingotto nel mercato cinese. E ancora, la Chrysler sta considerando l'ipotesi, la Chrysler ormai è Fiat, di produrre la Fiat 500 in Messico. Anche questa è discrezione del Wall Street Journal. Certo che se veramente poi andasse in porto l'idea di produrre la 500 a Toluca, questo sarebbe il primo vero test della nuova Chrysler, diciamo, sotto la direzione Marchionne. Gli investimenti in attività finanziarie in America, quindi tutti presi, globalmente presi, quelli dei privati, quelli anche di soggetti istituzionali o soggetti giuridici, sono crollati a dei 31 miliardi di dollari netti nel mese di giugno. Sono scesi praticamente dopo i 65 miliardi in meno di maggio, hanno fatto un altro meno 31 miliardi a giugno. Le attese erano di un rialzo negli investimenti finanziari, di una crescita intorno ai 20 miliardi. E poi, ripeto, ne parleremo, gli uffici di Chicago chiusi oggi per risparmiare, e quindi altro che fannulloni. Qui vengono, a Chicago, i dipendenti pubblici vengono obbligati a restare a casa, a non lavorare. Tutti gli uffici municipali, le cliniche, le biblioteche, le sale di lettura pubbliche, e non ci sarà oggi né la raccolta dell'immondizia né la pulizia delle strade. È una cosa incredibile, pensate se capitasse in una metropoli italiana. Non oso pensare alle polemiche, tutto per far risparmiare come giorno di austerità il lunedì, e sta pensando il Comune di Chicago anche al venerdì, dicevo, per far risparmiare soldi all'amministrazione, complessivamente 8,3 milioni di dollari. Sì, non è poco, ma non è nemmeno una cifra di quelle che possono risolvere i problemi di una città come Chicago, anche perché oggi in America è fallito un'altra banca piccola, la Colonial Bank Group, 77esima banca che fallisce dall'inizio dell'anno, e comunque la maggiore dal 2009. Praticamente costerà questo collasso all'Agenzia Federale Americana, che è responsabile per la gestione dell'assicurazione sui depositi, circa 2,8 miliardi di dollari. Questa notizia l'avevamo già data a Ferragosto, però è importante ricordarla perché sono sempre segnali di un peggio che non è complessivamente passato in America. E oggi il gufo? No, lasciamolo in vacanza il gufo. Se lo meriterebbe, diciamo, Axel Weber, che non è né uno scrittore né un pittore né un romanziere, è il governatore della Banca Centrale Tedesca, il quale ha detto: temo che i problemi per il sistema bancario tedesco non siano definitivamente alle spalle, temo ancora per il futuro delle banche. si meriterebbe il gufo, perché senza spiegare su quali basi, su quali istituti, in quali paesi, è difficile anche capire che cosa voglia dire, col massimo rispetto, Axel Weber. Mentre dalle prime stime che arrivano da Bruxelles oggi di, con la bilancia, sulla bilancia commerciale europea, sembrerebbe esserci a giugno un avanzo di 4,6 miliardi di euro, cioè noi abbiamo esportato come Europa 4,6 miliardi di euro più di quanto non si sia importato. Tant'è che oggi il vice ministro allo sviluppo economico con delega al commercio estero, Adolfo Urso, commentando dei dati, i dati Eurostat che ho appena ricordato, cioè un miglioramento della bilancia commerciale europea, ha detto che la ripresa delle esportazioni è vicina anche per l'Italia, che nell'ultimo quadrimestre dovrebbe finalmente volgere al segno positivo. Con questa notizia incoraggiante, in un panorama oggi così un po' incerto, meno 2,7% perde adesso Milano, partiamo dai consumi, consumi italiani, poi arriviamo a quelli americani. Già la settimana scorsa ricordavamo, analizzando le prospettive di ripresa dopo il dato franco-tedesco, che se non ripartono i consumi in Italia, i consumi sono il 60% del PIL, in America sono il 70% del PIL, per cui è inutile pensare che solo con un po' di export, magari verso la Cina o l'India, possano tornare i livelli di attività che abbiamo conosciuto fino al 2007. Intanto per ora, secondo le stime di Confcommercio, caleranno di quasi il 2% quest'anno i consumi rispetto al 2008, al netto dell'inflazione, ma l'inflazione praticamente conta poco adesso, e una leggera ripresa nei consumi italiani arriverà solo nel 2010 con un aumento dello 0,6%, che però al netto dell'inflazione, se tanto mina tanto, significherà consumi invariati. Lo stima l'ufficio studi della Confcommercio, che identifica anche un PIL italiano in calo del 4,8%, è un dato un po' più ottimistico rispetto ad altri che sono già a un meno 5,2, meno 5,3, però insomma, siamo sempre intorno ai decimali, intorno al 5% quest'anno caliamo purtroppo, e sempre secondo le previsioni di Confcommercio nel 2010 ci sarà una crescita ma molto molto debole, da prefisso telefonico, quello romano per la precisione, 0,6% la crescita attesa nel 2010. Solo nel 2011 potremmo avere una ripresa da prefisso anch'esso telefonico, questa volta barese, così continuiamo a giocare allo 0,8%. Seriamente, i dati dello studio della Confcommercio, sia sui consumi nel 2008 che sui consumi negli ultimi 7 anni, in questa scheda. Quella degli italiani verso il telefonino sembra davvero essere una passione a prova di crisi. Anche nel travagliato 2008, caratterizzato da un calo generalizzato dei consumi dell'1%, la spesa per l'acquisto dei cellulari è salita del 15%, una delle poche voci in positivo assieme alle attrezzature per casa e giardino e di tessuti per la casa. Al contrario, la crisi si è fatta sentire duramente per auto e moto, per cui si è speso il 15% in meno dell'anno prima. Del resto, in un anno pieno di incertezze, molte famiglie hanno preferito rimandare gli acquisti più impegnativi, come conferma il calo di oltre il 7% dell'insieme dei beni durevoli, come sono ad esempio elettrodomestici, televisori o computer. Al di là degli scossoni provocati dalla crisi, il 2008 ha comunque in buona parte confermato i cambiamenti nei consumi che Confcommercio ha rilevato negli ultimi 7 anni. Tra il 2002 e il 2008 il boom del telefonino è stato addirittura del 189%, ma è stato tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia ad esercitare una forte attrazione sui consumatori italiani. Lo dimostra l'incremento del 50% della spesa per i cosiddetti elettrodomestici bruni come stereo, lettori DVD o telecamere. E se in questi ultimi 7 anni si è parlato sempre di più al telefono, si è però letto di meno, con una spesa per libri diminuita di quasi il 10%. Quello verso la cultura non è stato però un no a 360 gradi, visto che invece è cresciuta del 16% la spesa destinata a servizi culturali e ricreativi. Dal 2002 ad oggi sono cambiate anche le scelte a tavola. Si consumano infatti più pasta e più carne a scapito di pesce e grassi, si è bevuta più acqua e meno alcol. Sempre più frequente poi il ricorso a medicinali e prodotti per la salute, in crescita addirittura del 36%. Colpisce infine l'incremento delle spese obbligate come affitto, bollette e assicurazioni. Nel 1970 a queste voci era destinato un quinto della spesa complessiva delle famiglie, mentre oggi siamo ad oltre un terzo. In cauda venenum, nella coda c'è un po' di veleno, perché se scopriamo che nel 70, quindi stiamo parlando di quasi 40 anni fa, ahimè, nel 70 per l'affitto e la casa si spendeva un quinto della spesa complessiva di una famiglia, adesso si spende un terzo, è chiaro che la torta si è ristretta per le altre spese, primo dato. Secondo dato però, e vorrei infatti ragionare proprio sulla parte che riguarda i 7 anni di analisi con il responsabile dell'ufficio studio della Confcommercio, dottor Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Dicevo, l'altro dato è comunque con una torta più piccola, perché se un terzo se ne va per la casa, mentre prima era un quinto, la torta resta più piccola, diventa più piccola. All'interno di questa torta più piccola abbiamo distribuito le fette anche in un altro modo, perché mi sembra abbastanza chiaro che vi sia una dinamica di restrizione del potere d'acquisto, ma anche di rimescolamento interno. Direttore Bella. Sì, la dinamica di riallocazione è forte, si innesta su trend di lungo periodo, ma insomma è vivace anche negli ultimi anni. Io direi che il trend maggiore è quello di spostamento dai beni ai servizi, cioè in buona sostanza negli scambi oggi le persone, le famiglie non chiedono oggetti ma chiedono soluzioni rispetto a esigenze, soddisfacimento di aspirazioni. In buona sostanza acquistiamo il tempo altrui, penso all'assistenza sociale, ai servizi di assistenza sociale che crescono di circa il 30%, quindi una volta autogestivamo questo tipo di esigenze, ora le diamo in outsourcing. Lei ha fatto riferimento correttamente a tutta l'area delle telecomunicazioni, che va declinata anche sui personal computer, quindi su tutto quello che è informatica per il consumo, e queste sono le due voci a mio parere più significative di grande cambiamento nei consumi delle famiglie. Aggiungerei una piccola postilla a quanto lei diceva nell'introduzione. Sì. L'incremento, il decremento del circa il 2% è in termini netto? Reali. Ah, okay, e poi lo 0,6 del 2010 è sempre in termini reali, quindi al netto di fenomeni inflazionistici. Teniamo conto però che con una crescita media della popolazione residente di 0,3-0,4 questi numeri diventano praticamente poco significativi. Cioè quelle bocche da sfamare in più sono lo 0,3-0,4. Eh sì, esattamente così. Tutti questi sono dati ufficiali dell'Istat. No, certo. Quindi, adesso capisco. No, ho fatto quella precisazione perché di solito le vendite al dettaglio dell'Istat sono sempre all'ordo dell'inflazione. Allora, però, ha fatto bene a precisarlo, poi se scopriamo che questo 0,3-0,4 di consumi in più è dovuto, per fortuna, ai nuovi nati. Ma insomma, non sicuramente a un andamento così bello espansivo della domanda interna, allora capiamo altre cose. Veniamo sempre sulle scelte. Voi che idea vi siete fatti di un paese in cui dal 2002 si consuma più pasta e più carne a scapito del pesce? Cioè, nei consumi alimentari c'è una variabile economica o stiamo parlando di variabili modali? Culturali, per essere più... Secondo me l'economia c'entra, e io questo lo vedo sul dato del 2008. Tutto sommato nel 2008, un anno di riduzione del PIL, del reddito e dei consumi, abbiamo anche una riduzione dei consumi alimentari. Certamente non è una riduzione in termini di numero di proteine o numero di vitamine a testa, ma è uno spostamento qualitativo verso il basso. Quindi questo sicuramente c'è. Poi nel lungo termine i fenomeni sulla dieta sono trainati da questioni di tipo sociodemografico, vanno bene gli altri alimentari, cioè l'aria per esempio del surgelato, dei piatti pronti, mentre il pane, la pasta e la carne crescono a scapito del pesce, a mio avviso, per una questione di immigrazione. Cioè questa popolazione che è cresciuta di circa 3 milioni di unità negli ultimi 10 anni, no? Quindi sostanzialmente parliamo di 250.000 immigrati poi regolarizzati all'anno, è una popolazione che chiede più pasta, più un certo tipo di proteine rispetto alle proteine che derivano dal pesce. Io lo interpreto in questo modo. Secondo voi non può essere che siano gli italiani a comprare un po' meno pesce perché il pesce è un po' caro? Questo potrebbe anche essere, ma non lo vedo dal dato aggregato. No, poi va anche detto, devo dare ragione, che se noi pensiamo come esperienza in questo caso molto biografica, quindi che vale nulla, ma esiste anche tutto il comparto del pesce surgelato che non ha dei prezzi nettamente più alti rispetto alla carne e alle carni, quindi probabilmente c'è anche un motivo culturale. Sono d'accordo con lei, Bella. Veniamo invece al dato sul 2008 e quindi arriviamo al presente, perché abbiamo scoperto come gli italiani hanno ridotto i consumi perché hanno meno potere d'acquisto, ma li hanno anche cambiati. Il 2008 invece è un anno classico da crisi, adesso possiamo girarla e rigirarla come vogliamo, ma meno 1%. Praticamente tranne i cellulari tutto il resto è in calo, insomma il 7% i beni durevoli come elettrodomestici, televisori, computer, insomma solo a chiacchierare non si rinuncia, a parlare non si rinuncia, tutto il resto però non si restringe. Sì, è così. Dunque le comunicazioni sia come hardware che come software, però ci sono anche degli elementi di contorno molto robusti che riguardano l'entertainment ad alto contenuto tecnologico, quindi gli iPod, le PlayStation, tutti questi strumenti che contribuiscono a una ridefinizione personale dei palinsesti di fruizione della musica o dei mezzi di comunicazione. Certamente il 2008 è un anno di crisi, io lo leggerei molto bene da quel meno 3% in termini reali di servizi alberghieri e alloggiativi, che richiama in causa anche tutto il problema del turismo. Nel corso del tempo e anche del 2008 la spesa dei turisti stranieri nel nostro paese è stata molto meno dinamica di quanto lo sia stata la spesa degli italiani all'estero. E quindi Bella, adesso la faccio arrabbiare, oggi non l'avevo ancora fatta arrabbiare, però voglio dire, chi è causa del suo mal pianga se stesso, visto che voi avete anche gli albergatori e ristoratori come associati. Forse c'è un'offerta un po' troppo cara rispetto alla qualità che viene data, forse si utilizza il turista un po' come selvaggina da passo, no? Da spennare lì per lì, cioè, forse non è solo la crisi, ecco, no? Sicuramente come dire, non è che la crisi agisca in modo, diciamo, nel vuoto, e chiaramente anche gli operatori fanno la loro parte, cerco di contrastarla, e forse evidentemente il nostro paese nel complesso, però come sistema, non credo che sia un problema di bar, ristoranti o alberghi, come sistema il nostro paese francamente non è competitivo con il solito esempio, se vogliamo, della Spagna. Ci sono dati in serie storica lunga che mettono in evidenza che addirittura l'Austria ha una dinamica del saldo turistico, come l'ho prima definito, molto migliore rispetto all'Italia. Credo che questi fenomeni gravissimi, sui quali secondo me bisognerebbe veramente lavorare, perché questi sì che possono fornire un impulso anche in termini non solo di consumi ma di PIL, ecco, credo che non si possa seriamente accusare la professionalità di alcuni operatori. C'è un po' un problema di competitività. Alcuni sostengono, probabilmente a car ragione, c'è un problema di fisco, di fiscalità, di vantaggio su alcune aree di queste spese. Insomma, comunque c'è da fare. Ultima domanda che ho per lei riguarda la parte più macroeconomica. Meno 4,8%. Siete all'interno di uno scenario pesantissimo, come è un calo dell'economia del 4,8%, però siete tra i più ottimisti anche del governo, se non ricordo male, che stima un meno 5,1%. Ma io non starei a, come dire, fare una guerra sui decimali, no. Il governo mi pare che sia uscito con meno 5,2, noi stiamo a meno 4,8, secondo me alcune istituzioni correggeranno in modo un po' più ottimistico i loro dati, comunque 4,8, 5,2 non credo che ci siano delle differenze fondamentali. Noi diciamo meno 4,8 perché riteniamo che il terzo trimestre del 2009, quindi questo trimestre, trimestre potrà palesare qualche segnale di miglioramento proprio sul versante dei consumi. Si pensi per esempio che a luglio le immatricolazioni di auto per fisica sono andate piuttosto bene, quindi dovrebbe esserci un miglioramento. Del resto tutti i climi di fiducia sia delle imprese che dei consumatori sono in continuo miglioramento e quindi questo dovrebbe esserci, però ripeto, non credo che siano differenze sostanziali. Grazie al responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella. Che un problema di consumi invece ci sia sicuramente negli Stati Uniti, lo vediamo da un insieme di dati, lo vediamo da questi saldi che ormai i tecnici delle vendite commerciali non chiamano più saldi, perché il saldo in senso stretto è un'offerta che si fa svendendo, comunque un'offerta che dura un certo periodo di tempo. In America siamo ormai a delle offerte strutturali, cioè il meno 50% è fisso, non è più un tentativo promozionale di finire le scorte in magazzino. Paolo Madron, inviato del Sole 24 Ore negli Stati Uniti, buonasera Paolo. Buonasera a voi. Ci confermi che qui non è un problema di esauriamo un po' di scorte, abbiamo delle scarpe, dei maglioni in più e quindi facciamo una promozione, come si fa anche in Italia da sempre, ma si stanno abituando a tenere il meno 20, meno 30, meno 40% fisso sulle vetrine. Tu hai fatto un bell'articolo su questo che riguardava il negozio della, tanto si può dire, della Lacoste a New York, assaltato da decine di centinaia di francesi, italiani, spagnoli. Prego. Sistema di vendite, diciamo sales, di vendite permanente, e la cosa nuova è che anche i cosiddetti brand, insomma le marche di brand che prima erano immuni da questo sistema, adesso ci sono in pieno, nel senso, tu hai citato prima l'esempio di Lacoste, ma se ne potrebbero fare altri. Non sono più diciamo liquidazioni fino a esaurimento delle scorte in negozio, ma sono liquidazioni che io chiamo rifornite, cioè con i supply che continuano ad arrivare, cioè ogni giorno arrivano delle magliette nuove che vengono messe appunto in liquidazione, in vendita in liquidazione, quindi il fenomeno è abbastanza rilevante. E ciò nonostante, se non fosse per le famiglie di italiani che si strappano le magliette Lacoste, perché sono a $40 l'una, così facciamo anche pubblicità, sì, alla Lacoste, ma in America nessuno ci può dire nulla, se non fosse per gli italiani, i francesi, gli spagnoli, questi negozi sono semivuoti. Beh, gli americani consumano con grandissima parsimonia, i negozi sono semivuoti, solo quelli che hanno promozioni fortemente spinte, tu parlavi del 50% prima, ma qui si arriva tranquillamente al 75% anche. In molti posti si arriva al 75%, quindi diciamo solamente i negozi che incentivano molto godono di una certa, diciamo, frequentazione, altrimenti è il vuoto, cioè il tema vero sostanzialmente, no, di questa America che da un punto di vista, se non altro tecnico, dice stiamo uscendo, siamo usciti, no? Hanno già dichiarato la recessione che è finita, è chiusa. In realtà, ahimè, che i consumi sono al palo, sono fermi. Mettiamola così. Ci sono due Americhe, c'è una diciamo tecnicamente ottimista e l'altra realisticamente pessimista. Cioè la recessione, la crisi sarà finita per l'America di Wall Street, ma non per quella di Main Street, come si diceva una volta. Per cui forse, anzi, abbiamo visto che Goldman Sachs, Merrill, Citigroup, lo so, l'ho già detto, fanno di sì in studio, però a me sta cosa, sono tornati a macinare utili, 3 miliardi nel secondo trimestre di profitti, sia Citi che Goldman, 6 miliardi accantonati per i bonus ai manager, vuol dire messi da parte in previsione di nuovi bonus ai manager che tanto bene hanno fatto in questi mesi, e quella parte lì obiettivamente a Wall Street, Paolo, ci puoi confermare che si respira un'altra aria. Sì, la finanza comunque è un'industria a sé, le varie banche sono tornate a fare, insomma, né più né meno quello che facevano prima. Blackpool e altre cose che abbiamo detto. Sì, la finanza poi ha una, come dire, qui a Wall Street ha un tasso di creatività che per certi versi è anche perverso, ammirabile, quindi voglio dire, e si inventano sempre prodotti nuovi, insomma, come sapete bene, no? Si scommette sulla crescita, ma si scommette anche sulla forte crescita, quello che ha fatto per esempio Goldman Sachs a suo tempo, è stata l'unica banca che ha scommesso contro la bolla dei subprime e poi alla fine ha anche vinto. Ma questa è, diciamo, l'economia di carta. Di carta. L'economia reale, che è un'altra cosa. Dopo il meteo e la pubblicità, vorrei, c'è un bellissimo articolo tra l'altro che segnalo, chi riesce a recuperare sulle 24 ore di sabato, riesce a leggere su internet, sempre tuo, con Antonietta De Murtas, sui bamboccioni involontari made in USA, cioè questi americani che rientrano a casa. In America tornare a vivere dai genitori non è come in Italia, per fortuna, qui in America è un'onta vera e propria, è un segno di fallimento. E tra l'altro voi raccontate anche che c'è pure un certo fastidio da parte dei genitori nell'avere sti figliocci un po' grandi che ritornano a casa. Ma dopo il meteo, Paolo, vorrei invece concentrarmi sulle difficoltà della finanza locale americana, perché qui non stiamo solo ragionando di negozi vuoti, stiamo ragionando di uffici pubblici che nella capitale, diciamo, dell'industria americana come Chicago restano chiusi il lunedì e forse anche il venerdì, biblioteche, anagrafe, perché bisogna risparmiare sulla bolletta e sugli stipendi. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, mentre c'è chi vorrebbe vicino al gufo anche il suono dell'avvoltoio. Mamma mia, immagino, per indicare chi ci sta guadagnando da questa crisi. Ma tutto sommato noi siamo contenti, lo so, il riferimento alle banche americane, che le banche americane tornino a macinare utili, che escano dagli aiuti di Stato, che i mercati si stabilizzino. Basta che questo poi non avvenga creando nuove bolle, giochetti strani, compravendita al millesimo di secondo, black pool, pozzi neri dove non si capisce cosa transita. Ecco, questo non ci piacerebbe molto. Comunque, Paolo Madron, 166 miliardi di dollari è il deficit complessivo delle amministrazioni americane. Tra cui 27 miliardi alla California, 4 miliardi a Connecticut, 1 miliardo e 3 all'Alaska. Raccontaci come il comune di Chicago è arrivato a una decisione che, ripeto, se avvenisse da noi porterebbe, oltre che al commissariamento, a decine e decine di paginate di scambi polemici anche a livello politico. Chiuse le biblioteche, le sale di lettura, le cliniche, tutti gli altri uffici comunali, non ci sarà la raccolta dell'immondizia né la pulizia delle strade lunedì e forse anche il venerdì. Paolo. Sì, come dire, questo onestamente fa molto, molta specie in Italia, come dicevi tu, avrebbero riempito le pagine dei giornali, qui lo liquidano con, come dire, con, sì, si segnala che gli uffici resteranno chiusi, però, come dire, il tema dell'indebitamento degli stati è un tema sentito e insomma, ahimè, il livello di indebitamento è tale che, come dire, non basta più, come dire, una ordinaria sana amministrazione, cioè un'amministrazione straordinaria, e quindi si arriva anche alla chiusura parziale per qualche giorno degli uffici pubblici, si arriva alla chiusura dei servizi, le biblioteche, ma insomma il tema vero è che noi siamo abituati ad immaginare il debito americano come il debito federale, che di per sé è rilevante, siamo al 60% del PIL. Per noi il 60% del PIL penso sarebbe una festa, ma qui è un dramma. In realtà poi trascuriamo il fatto che gli stati hanno il loro debito. Tutte, eccezione fatta del Montana e del North Dakota, quindi sono, diciamo, 48 stati su 50, e sono pesantemente indebitati e ognuno, come dire, usa la ricetta che crede. C'è chi chiude gli uffici, chi non ripara più le strade, chi vende Alcatraz, il verde pubblico, chi vorrebbe vendere, legalizzare la marijuana, esatto. ogni pensata è buona per cercare di fare un po' di soldi, anche perché qui poi la cosa importante è che, siccome per legge gli stati non possono essere indebitati, si taglia drasticamente. Allora la California scopre di avere 23 miliardi di dollari di debito e da un giorno all'altro, non da un giorno all'altro ovviamente, però alla fine arriva a stabilire che si taglia, come sapete bene, quando gli americani tagliano non vanno molto per il sottile. No, io ricordo quella bellissima imitazione di Corrado Guzzanti, forse la riprenderemo un giorno, vendiamo la Sardegna per risolvere il problema del debito italiano, con la Serena Dandini. Mi sembra che in America, non dico che stiano arrivando a vendersi la Sardegna, però se avanti così... Adesso non ricordo esattamente, perché il pezzo sugli studi l'ho fatto un mese fa, però c'è una città che ha tagliato 2 milioni di euro non accorgendosi che quei 2 milioni di euro li aveva, scusate, 2 milioni di dollari li aveva stanziati per far fronte all'emergenza dell'influenza cosiddetta suina, insomma l'influenza di tipo, ecco, quindi questo è un esempio di come evidentemente non si guarda molto molto per i sottili. Sì, comunque la situazione è, l'ultima domanda che ho per te, poi passiamo alle borse, questo debito deficit nel caso che citavo prima è 166 miliardi, sì. Come è stato possibile raggiungere? Cioè, noi sappiamo che alcune amministrazioni hanno anche fatto operazioni a leva finanziaria molto rischiose, questo purtroppo è venuto anche a casa nostra in alcuni comuni, pensiamo al caso di Milano, e hanno ampliato il loro indebitamento, ma è tutto colpa delle speculazioni finanziarie dei prodotti tossici? No, assolutamente no. Intanto bisogna tenere in conto che, come dire, una diminuzione del gettito fiscale dovuto al fatto che, come dire, c'è gente che lavora di meno e quindi paga di meno. Questo è fondamentale. La California, per esempio, ha dovuto fare i conti, che è considerato, no, era considerato lo Stato ricco. La California ha dovuto fare i conti con una drammatica diminuzione del gettito fiscale. La diminuzione del gettito fiscale comporta un aumento dei programmi di sussidio alla disoccupazione. Quindi, vuol dire, non è soltanto un problema, un tema di speculazione finanziaria che pure alcuni stati hanno fatto. C'è una crisi reale. Questo è un paese e molti stati, poi, cioè, non ha senso poi in realtà parlare di paesi, insomma parliamo dei differenti stati. Molti stati di questo paese hanno avuto per anni un sistema di welfare, diciamo, stellare. Io, insomma, ieri, che era Ferragosto, ho fatto una passeggiata tra alcuni parchi di New York. Anche New York ha il problema di risparmiare soldi, ma insomma come sono tenuti i parchi di New York è una cosa ancora, diciamo, rimarcabile. E quindi, voglio dire, nel momento in cui c'è stata una totale diminuzione delle entrate, un totale aumento di tutti i programmi di sussidio, è chiaro che si entrava in cortocircuito e ci si indebitava, e questo ha fatto sì che, insomma, sono stati stati che hanno vissuto per anni, diciamo, all'altezza delle loro possibilità, della ricchezza che producevano. Sì, nonostante il welfare sanitario in America non sia nulla di che, però fai bene a ricordare altre strutture sociali, chiamiamole così, funzionano bene e costano anche. È importante, però, per chiudere, lo dico anche rispondendo a alcune domande che stanno arrivando al 349-238-6666, attenzione, l'America purtroppo ha sempre fatto da apripista in questa crisi e quindi anche da paradigma un po'. In America la crisi da finanziaria, risolta la parte finanziaria, sanato, messa in sicurezza la struttura il sistema bancario e finanziario in generale, si è spostata l'economia e adesso ai consumi. Finché non esce anche l'uomo di Main Street, ne esce solo l'uomo di Wall Street, da questa crisi non potremo dirci fuori in maniera completa, perché non ripartirà la componente principale del PIL americano. Grazie a Paolo Madroni, inviato del Sole 24 Ore negli Stati Uniti. Nel frattempo da noi le borse hanno chiuso tutte, l'America invece perde l'1,80%, l'euro quota 1,40, meno 2,74% il FTSE MIB, meno 2,6% il FTSE All, male un po' tutti i settori oggi per via dell'Asia. L'Asia non l'ho data prima, avete ragione, Hong Kong ha perso il 3,6% questa mattina e il Giappone il 3,1%. Il titolo peggiore a Piazza Affari è risultato alla fine CIR meno 4,50, Autogrill meno 4,1 come Intesa e Geox. Ripeto, in realtà non ci sono titoli che hanno perso tantissimo, ma ci sono tanti titoli che hanno perso molto, tra il 4 e il 2%. Ultima parte di Focus Economia, le borse, dicevamo, e allora, con la giornata è stata negativa per tutte le piazze, Parigi meno 2,1, Francoforte meno 2, Londra meno 1,4%, tra le migliori. Commenteremo adesso il quadro generale, visto che oggi il calo è tutto di matrice asiatica, e non solo, ma principalmente asiatico. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Invertiamo, diciamo, un po' il nesso causale, partiamo dalla coda con te, e cioè quali titoli hanno sofferto sopra la media oggi, perché vediamo le CIR e ci stava dopo la corsa di questi giorni, meno 4,50, Autogrill meno 4,1, Intesa meno 4,1, Geox meno 4, Bulgari meno 4, Prisma meno 3,80 e Unicredito pure. Banco Popolare meno 3,75% e Pirelli meno 3,7%. Tenaris meno 3,6%, Impregino meno 3,5%, Mediobanca meno 3,4%. Al di là delle CIR, Autogrill mi sembra la componente più forte per quello che riguarda l'America. Sì, esattamente, questa seduta comunque è stata caratterizzata in generale da consistenti prese di beneficio su quasi tutti i settori che erano saliti nelle ultime sedute in seguito all'ondata di ribassi che, come ricordavi tu, è partita dall'Asia. Per quanto riguarda Autogrill, anche lei era andata molto bene nelle ultime sedute, il bilancio settimanale rimane, nonostante il calo di oggi, decisamente positivo, ha fatto circa un più 5,7% negli ultimi 7 giorni, quindi gli operatori segnalano questa ondata di vendite che, per monetizzare parte dei guadagni messi a segno sulla scia dei rinnovati timori che dall'Asia, come hai già detto, hanno investito anche gli Stati Uniti e in mezzo anche gli listini europei, naturalmente. Allora, questo per quello che riguarda chiaramente Autogrill. Devo dire, oggi anche tutti i bancari molto deboli si erano molto ripresi in questo mini rally estivo. Non c'è estate senza Cornetto Algida e senza Minirelli, mi sembra di poter dire, perché ogni estate ce n'è uno. Comunque, Unicredito meno 3,80, Intesa meno 4,1, Banco Popolare meno 3,70 e Mediobanca meno 3,40. Restiamo sulla galassia dei Benedetti, perché CIR hanno perso tanto. Management e capitali, come andate? Management Capitali ha chiuso un'altra seduta in rialzo, nonostante abbia limitato sul finale i guadagni, chiudendo con circa più 2,2%, nel durante è arrivata a guadagnare anche più 13% quasi, quindi la borsa, nonostante tutto, continua a far salire i titoli e quindi continua a scommettere su qualche nuova sorpresa e quindi su qualche nuova offerta che superi le cifre finora messe sul piatto da una parte della famiglia Segre, cioè ricordiamo 0,11 euro per azione, e dall'altra da Giovanni Tamburi 0,12 euro per azione. Oggi il titolo ha chiuso a 0,18 euro e quindi è evidente che la speculazione scommette su qualche sorpresa in arrivo. Si parla da settimane di una possibile nuova offerta da parte dell'imprenditore Alessio Nati, mentre ricordiamo che poco prima di Ferragosto la Vomed di Carlo De Benedetti, che è primo azionista di Management dei Capitali, ha effettuato alcuni acquisti a un prezzo compreso tra 0,14 e 0,15, quindi anche essa scommettendo su evidentemente un valore superiore della società rispetto a quelli espressi dall'EOPA. E poi il messaggio è chiaro: se chi se la vuole comprare deve fare i conti con me, ha visto che aumenti la quota tua. Finmeccanica, grossi problemi per quello che sembrava essere un gioiello, anzi il motivo, l'elemento con cui la Boeing avrebbe superato e si sarebbe riscattata da Airbus, vista le difficoltà che ha avuto l'Airbus 480, il gigante dei cieli, a decollare. E invece grosse difficoltà le ha anche la stessa Boeing, perché il 787 Dreamliner, quell'aereo di medio raggio, se non possiamo raccontarla tutta, che aveva ricevuto molti più ordini rispetto all'Airbus, ha grossi problemi alla fusoliera. La fusoliera la produce l'Alenia nello stabilimento pugliese di Grottaglie, è un giocatore se non ricordo male, di Grottaglie, e anche timori sull'occupazione. Il titolo? Sì, oggi il titolo Finmeccanica ha perso il 2,76%, naturalmente risentendo della debolezza generale dei listini. Ricordiamo che appunto venerdì un portavoce di Boeing ha annunciato che ci potrebbero essere nuovi ritardi proprio per la produzione del 787 e ha puntato il dito su un ritardo proprio della produzione di alcune parti della fusoliera che vengono fabbricate dall'Alenia, che è controllata da Finmeccanica. Alenia ha immediatamente risposto che nei suoi stabilimenti la produzione continua in accordo con gli standard della Boeing, ma ovviamente questa situazione di incertezza non ha fatto piacere al mercato, che oggi tra gli altri ha penalizzato anche i titoli Finmeccanica. In una battuta l'Ottomatica, visto che è l'unico titolo positivo, 0,13%. Sì, esattamente, è continuato a beneficiare della notizia diffusa la settimana scorsa del fatto che l'azionista principale De Benedetti ha venduto opzioni put, mettendo quindi su un rialzo del titolo, e inoltre oggi è stato pubblicato il bando per il rinnovo della concessione dei Grattai Vinci, un altro elemento che ha spostato il titolo sotto i riflettori, favorendo un riposizionamento di investitori, in particolare fondi esteri, secondo quanto segnalano dalle sale operative. Grazie a Paolo Paronetto di Radio Corriere Sole 24 Ore. In questa puntata un po' a gambero andiamo quindi dalle cause agli effetti. Gli effetti li avete sentiti, gli effetti sono stati i cali del 2,7% a Milano, del 4,5% tra i titoli, le cause oggi si chiamano Asia. Ci abbiamo messo un po' a capire perché il mercato, chiaramente siamo anche un po' duri di nostro, però ci abbiamo messo un po' a capire perché il mercato reagisse così male a un dato che, visto di primo acchito, sembrava più che buono. E cioè, dopo 12 mesi dritti, filati di continuo segno meno di recessione economica, il Giappone per la prima volta vede la luce e registra un segno più nel suo andamento economico, più 0,9%. Gli analisti si attendevano un più 1% e molte agenzie dicono per questo che le borse sono calate. Ci sembra veramente così una scusa e anche poco degna. Non è per uno 0,1% che la gente si strappa le vesti. Forse un po' più di peso ce l'ha il crollo degli investimenti stranieri verso la Cina. Meno 36% nel mese di luglio gli investimenti stranieri, dall'America all'Europa, verso la Cina. A giugno c'è stato un calo solo del 6,7%, e questo lascia perplessi tutti gli osservatori che dicono arriverà dalla Cina la ripresa vera e propria. E allora torniamo anche a vedere un indicatore di quelli che ci piacciono tanto, quelli concreti. Quanto costa noleggiare un cargo che deve trasportare non qualunque merce, basta che non sia petrolio? Esiste un indice, è il Baltic Dry Index. Dry sta perché la merce trasportata non è liquida, e mette assieme ogni mattina le tariffe delle 24 principali linee cargo internazionali per vedere come si muovono i prezzi. Se c'è molta richiesta di merci, i prezzi salgono; se ce n'è poca, i prezzi crollano. E cala, dunque, l'indice ha fatto così: era 11.000 punti, il massimo sono 12.000 punti a maggio, è crollato a 7.500 ad agosto 2008. A dicembre 2008 era 666 punti, il minimo storico da quando esiste questo indice, che esiste da secoli perché l'hanno creato gli inglesi a Londra per sapere quanto costava trasportare le merci. Comunque 666 punti a dicembre 2008, ha recuperato poi ad aprile 2009 1.400 punti, a giugno è arrivato a 4.200 punti e adesso ne ha perso un altro 50%, è tornato a 2.852 punti. Dottor Alessandro Fugnoli, responsabile ufficio studi di Abax Bank, buonasera. Buonasera a voi. Siccome l'Asia ci interessa, è un anticipo quello che lei ci dà di un approfondimento che poi svolgeremo meglio domani. Lei immagino che il Baltic Dry Index lo guardi spesso, magari non il sabato sera con sua moglie, ma insomma in generale lo guardi. Sì, è un indice interessante da non prendere da solo, ma come nulla va preso da solo, ma comunque è significativo secondo me in questo momento del fatto che La Cina nei mesi passati ha ricostituito molto le sue scorte di materie prime. Queste scorte erano state consumate nel corso del periodo più buio della crisi, quando tutti, e quindi anche i cinesi, avevano risposto al calo dei consumi arrestando completamente non solo la produzione ma anche gli ordini per il magazzino di input, quindi le materie prime. Stabilizzatasi la situazione nei consumi, a un certo punto si è resi conto che bisognava riprendere a ordinare materie prime, perché altrimenti la produzione non avrebbe avuto di che produrre. E quindi c'è stata un'impennata molto forte, per alcuni anche accentuata dal fatto che la Cina ha imponenti riserve in dollari e una parte di queste è saggio diversificarle in materie prime, espresse magari in dollari come il petrolio. Quindi la Cina ha in corso da ormai 2 anni una politica di costituzione di scorte strategiche di petrolio come gli Stati Uniti. Insomma, l'insieme di questi fattori ha prodotto un'inversione molto notevole del costo delle materie prime, un forte rimbalzo. Questo rimbalzo ha prodotto benefici per i titoli delle materie prime, dell'energia, del petrolio e tutto quello che si tirano dietro. E adesso invece l'idea è che la Cina ha ricostituito un livello adeguato di scorte, quindi ordinerà un po' meno materie prime. Già lo vediamo con i punti di questo indice che misura il costo del nolo. Domani lei, dottor Fognoni, ci aiuterà a capire anche quali siano i vostri timori sull'Asia. Però mi dica, prima di chiudere questo anticipo di intervento, una cosa. Il calo di oggi delle borse è dovuto al PIL giapponese o all'andamento cinese? Giustamente ha detto lei, il PIL giapponese non c'entra. Perché è uscito proprio frazionalmente sotto l'aspettativa, nel complesso è stato molto buono, il primo PIL positivo e anche ben positivo da parecchi trimestri. No, è il fatto che da qualche giorno nel mercato serpeggia l'idea che dopo un 50% di recupero si è corso un po' troppo, adesso il mercato è più avanti dell'economia, che l'economia adesso